Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera e benvenuti a Smart City, Maurizio Melis al microfono. La storia delle tecnologie IT e della loro prodigiosa diffusione nel corso degli ultimi 30 anni è in gran parte la storia di una ricerca, quella di interfacce sempre più semplici e naturali. Più i computer sono diventati piccoli, semplici e immediati da usare, più si sono affermati e oggi, insomma, non c'è quasi nessuno che non ne abbia uno in tasca. Questa ricerca naturalmente non si è fermata, per esempio si punta a realizzare interfacce vocali sempre più evolute, una strada che incrocia quella della ricerca sulle intelligenze artificiali. Ma ci sono altre possibilità molto più immediate. Snapback è una startup nata nel 2013 che è impegnata a sviluppare tutta una serie di nuovi modi di interagire con gli smartphone sfruttando i sensori che già oggi ospitano. Ne parliamo con Simone Severini, che è l'esperto di marketing della startup. Buonasera Simone. Buonasera Maurizio. Allora, voi avete immaginato tanti nuovi gesti e naturalmente per ognuno c'è anche un sensore che utilizzate. Vuoi cominciare con una carrellata? Sì, quello che abbiamo immaginato è rendere più intuitivo possibile l'utilizzo dello smartphone, quindi quale gesto più naturale che soffiare, ad esempio, per inviare una mail o schioccare le dita per far partire una telefonata o far partire il navigatore satellitare, oppure naturalmente usando il voice recognition introdurre un indirizzo in cui vogliamo arrivare senza levare, ad esempio, le mani dal volante. Un'altra situazione che avete immaginato è una situazione di emergenza che può capitare sul luogo di lavoro dove non si riesce magari a comporre un numero. Chiaro, se si è magari in condizioni di pericolo o magari si hanno i guanti alle mani, non si può avere un utilizzo dello smartphone così semplice, quindi magari anche scuotere lo smartphone può far partire una chiamata di emergenza, ad esempio. Ecco, e tutte queste cose utilizzano sensori che sono già a bordo dello smartphone, l'accelerometro in questo caso, oppure i microfoni, eccetera, eccetera. E poi avete tutta una serie di possibilità legate alle gestualità della mano, giusto? Sì, esatto, sfruttando il sensore di prossimità, okay, che è un sensore che è nato per tutt'altri motivi, certo, ma che adesso si sta, stanno perfezionando il sensore proprio per poter riconoscere delle gestualità che facciamo in prossimità dello smartphone. Per esempio, uno può alzare o abbassare un volume avvicinando o allontanando una mano, ecco, assolutamente. Questo per fare un esempio. Una telefonata. Ecco, proprio questa cosa del sensore di prossimità ci porta forse a capire bene anche qual è un po' la difficoltà del vostro lavoro. Per esempio, qui di sensori ce ne sono tanti. Dicevi che è nato per un altro motivo. Qual è? Ricordacelo. Allora, il sensore di prossimità è nato perché con l'avvento degli schermi touch. Diciamo, quando arrivava una telefonata e noi poggiavamo l'orecchio sul schermo touch, succedeva la qualunque. Bisognava disattivare lo schermo, no? Quando si avvicinava il telefono alla faccia, sostanzialmente. E il sensore di prossimità lo fa automaticamente, quindi basta avvicinare l'orecchio allo smartphone durante una telefonata e lo schermo si spegne. E dicevamo, ce ne sono di tanti tipi. Beh sì, assolutamente, ogni casa produttrice si rifornisce da produttori di sensori differenti, quindi ogni sensore, diciamo, ha un linguaggio di programmazione differente, quindi una delle nostre sfide più grandi è quella di riuscire a comunicare con lo stesso linguaggio con più sensori. Con più sensori che hanno raggio d'azione diverso, insomma, no? È una partita difficile anche per questo motivo. E sempre a proposito di gesti, anche le gestualità nelle varie culture, insomma. Riferendoci a un mercato potenzialmente globale, dobbiamo cercare di trovare dei gesti che in tutto il mondo vengano riconosciuti con il significato che vogliamo dargli. Quindi quale può essere un gesto che in tutto il mondo possa dire no, non voglio rispondere a questa telefonata, oppure setta il navigatore satellitare per andare in questo luogo. Queste sono altre sfide che ci stiamo ponendo, non come Facebook, tra parentesi, che apro questo excursus, che ha fatto con il gesto del pollice rivolto verso l'alto, diciamo, una piccola gaffe nel mondo arabo. Ecco, perché lì invece è un insulto di quelli pesanti. Esatto. Diciamo che non andrebbe fatto in quei luoghi. Grazie Simone Severini. Grazie a te Maurizio, buona serata. Prima di lasciarvi vi segnalo che questa settimana incontreremo Snapback all'Expo al padiglione Samsung nel corso dei 5 appuntamenti organizzati da Team ed Ericsson in collaborazione con Radio 24 sul tema delle città intelligenti. Mi troverete lì, appuntamento a domani.